I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte, ciao a tutti. L'uso sterilizzato della memoria. L'usura del tempo non c'entra con il fatto che una catena di eventi venga ad essere rimossa dalla memoria collettiva. La causa e i processi di dimenticanza e di oblio sono voluti e perseguiti attraverso la falsificazione della memoria storica, la produzione di ricordi sostitutivi, di codificazioni fuorvianti e fraudolente. In luogo del non far sapere, si sceglie di far sapere ciò che legittima il potere e pertanto funziona come strategia di controllo sociale. Atti, memoria collettiva, memoria femminista, 2012. E a proposito di memoria, a proposito di trasmissione della memoria, a proposito di memoria attualizzata, vi rimandiamo e vi aspettiamo mercoledì prossimo, perché faremo una trasmissione in proposito e parleremo di CIE, parleremo di Desparecidos e sarà con noi in trasmissione Silvia Nati, che ha fatto uno spettacolo con i Filini Blu sui Desparecidos in Argentina 1976-1983. Questo spettacolo racconta la storia vera di una delle tantissime bambine nate nei centri di detenzione clandestini, strappate alle madri, date in adozione a famiglie di militari e ritrovate grazie all'infaticabile lavoro delle madri di Plaza de Mayo. Quindi identità imposta, identità personale, identità acquisita, identità di un popolo. E ci sarà questo spettacolo, sarà presentato all'ex 51 il 4 di febbraio alle ore 20:30 e comunque vi rimandiamo a mercoledì prossimo in cui parleremo di tutte queste cose. E adesso parliamo della trasmissione di oggi. Ciao a tutte, ciao a tutti di nuovo. Allora, come attualità femminista, questa settimana ci hanno colpito due notizie che poi noi abbiamo sintetizzato nel titolo della prima parte della trasmissione, l'abbiamo chiamata la scuola azienda. Allora, le due notizie sono: una riguarda il fatto che in moltissime scuole di svariata natura e in varie parti d'Italia Dato che la scuola non ha più finanziamenti, si deve finanziare da sola, ogni scuola deve pensare a se stessa e a procacciarsi i soldi per le varie attività, cosa hanno pensato bene? Di legarsi, cioè McDonald's, la famosa multinazionale che purtroppo conosciamo tutti, ha fatto una proposta e questa proposta è stata accolta da moltissime scuole, la proposta di un concorso, e poi hanno pure partecipato, pure vinto, e vi raccontiamo in che, con che modalità. Allora, fondamentalmente la campagna si chiama Punti che contano e il progetto, appunto, come diceva Eli, è McDonald's premia la scuola. E questo concorso dura 6 mesi, nel quale esiste un montepremi complessivo di 250.000 euro, e chiedeva di votare su una pagina web la propria scuola, con la possibilità di assegnarle una quantità di punti proporzionale alla spesa effettuata in qualsiasi McDonald's. Quindi ogni euro vale un punto. Fino a qui tutto chiaro, cioè nel senso proprio i concorsi premio, no? Quelli del supermercato, che ogni euro un bollino. E quindi questa corrispondenza tra i punti McDonald's e l'euro speso da McDonald's aiutava appunto la scuola a raggiungere il monte premi. E quindi si sono candidate a questo bellissimo concorso ben 2000 istituti italiani. Inorridiamo al solo pensiero di quello che abbiano mangiato questi che hanno raccolto i punti. Sì, e quello che si sono aggiudicate le prime classificate è stato un kit didattico e tecnologico del valore di 8.000 euro, perché ovviamente il monte premi, no, sapete come funzionano i concorsi, no? Cioè il monte premi viene detto 250.000 euro e poi in realtà viene diviso tra tutti i vari vincitori essendo appunti. Infatti sui vari media mainstream spiccano le foto della premiazione delle scuole, no? Per esempio qui c'è la premiazione della scuola media Enrico Fermi di Binasco di Milano, che ha vinto un kit didattico di 2.000 euro e uno di 8 ben 2, che poi, se vi ricordate bene, pure nella puntata che abbiamo fatto qualche tempo fa, quando uscì fuori tutto quei paper sulla buona scuola e sul vario progetto, che vabbè trovate anche sul blog di coordinamento.noblogs.org, e in realtà lì vedete che in realtà questo progetto è, diciamo, nel senso, integrato perfettamente, non che ci sia servita la buona scuola a far entrare l'azienda, No, ma però diciamo che gli ha aperto un po' di più le porte. Praticamente l'impostazione era già da anni sempre indirizzata in quel senso, e qui gli è stata data la veste definitiva, in effetti, no? Tant'è vero che poi ci sono delle interessanti note che vengono dal MIUR, perché gli è stato fatto presente che chiaramente questa cosa va tutta, se non a discapito, tutta a discapito della salute dei bambini e della salute delle persone, perché chiaramente non occorre una grande palla di cristallo per sapere che cosa si sono mangiati questi, appunto, per fare punteggio. Ma no? Ovviamente questo è, no, dovuto, è molto ipocrita anche da parte del MIUR, perché insomma qui si potrebbe aprire vari parentesi anche su quello che viene considerato, no, la salute degli studenti. Sì, appunto. E delle studentesse. Ci ritroviamo in scuole che ormai non hanno fondi assolutamente di nessun tipo e genere, appunto devono attingere a buste premi e quant'altro per riuscire comunque a sbarcare l'orario. Scuole che cadono a pezzi, però hanno magari, che ne so, le lavagne, quelle digitali. E anche sul cibo, insomma, ci sarebbe da fare una puntata a parte proprio anche sul cibo e sulla cultura alimentare che viene poi piazzata, no? Tutti questi nutrizionisti che si occupano dell'alimentazione scolastica e, diciamo, infantile e giovanile, che poi però appunto hanno eliminato dalle scuole già qualche decennio fa le mense all'interno della scuola, perché è tutto imbustato certo. È passato attraverso, no, le meravigliose aziende quali ricordiamo una al volo, la Cascina, no, insomma, che certo. conosciamo benissimo, che addirittura quello è più salutare, è quella che faceva cioè i pasti, insomma, certo. per i CIE, giustamente, no, ecco. Allora, ma il tant'è vero che il sottosegretario del MIUR ribadisce che le scuole sono comunque libere di scegliere le offerte che tutte le offerte commerciali che vengono loro proposte attraverso le strategie del marketing, eccetera. Sta alla scuola scegliere queste cose qua. E poi c'è anche un'altra cosa, che le scuole stesse hanno difeso questa, cioè le scuole, non le scuole come dirigenti utenti, scolastici. Scolastici hanno difeso questa perché invocano l'autonomia, dicendo che ciascun istituto così può decidere le proprie iniziative, decidere se aderire a quello che viene proposto dalle aziende, eccetera eccetera. Ma no dimmi. No vabbè, ci stavamo rimpallando il microfono. Sì, perché l'argomento ci prende abbastanza, no, che appunto tutto il discorso dell'autonomia adesso con la buona scuola è proprio uscito allo scoperto, cioè nel senso si sono espressi in maniera molto chiara, definendo appunto meglio qual era l'autonomia scolastica come una diciamo una competitività tra tutte le scuole, no? A seconda di quanto tu ti meriti in quanto scuola, quindi il tuo funzionamento azienda vale di più, quindi guadagni più prestigio, più punti, più possibilità. E voi pensate anche alla disparità di classe che viene fuori da questa situazione, perché chiaramente gli istituti più ricchi in cui i genitori mettono i soldi non hanno bisogno di fare i punti con McDonald's, no? E sempre a proposito della scuola azienda, sempre questi giorni passati, recentissimamente, c'è stato un altro caso, questa volta non negli istituti secondari ma all'università. E precisamente il Politecnico di Milano. Allora, il Politecnico di Milano che cosa ha fatto? Ha avuto la pensata di fare tutta una serie di gadget, chiamiamoli così, si possono definire tali, dalle magliette merchandising, dalle magliette con la scritta Polimi, no? Politecnico Milano, a tutta una serie di altre cose che loro stessi propagandano. Sì, le tazze, le borse, appunto, fanno appunto questa, ispirati alla cultura politecnica, perché ovviamente insomma il design, no, il creare, la cura nel dettaglio, quindi sono delle vere e proprie collezioni, come, che ne so, appunto quelle che vanno con il nuovo logo di un film, le abbiano anche portate all'Expo, no? Hanno qualche legame con l'Expo, se non mi sbaglio. Sì, perché in realtà è stato progettato dai ragazzi della facoltà di design, e quindi in collaborazione non con l'Expo ma con Nava e MHA Way, che sono, penso, due brand di design famosissimi. Di design, certo. Però insomma non ci sconvolgerebbe la loro il loro coinvolgimento di Expo 2015. Sì. E insomma questo obiettivo appunto di merchandising serve, secondo loro, insomma, a riprendere quella tipologia di università e di fidelizzazione anglosassone, per cui appunto si richiede agli studenti, indossando questi zainetti, queste tazze, queste magliette, di appunto sentirsi ancora più coinvolti dal proprio ateneo, dal proprio Politecnico. Faccio un inciso: in effetti quella dell'Expo 2015 riguardava la notizia di prima del progetto McDonald's, che praticamente McDonald's ha sviluppato il progetto McDonald's premia la scuola proprio lungo i 6 mesi dell'Expo 2015, ce l'avevamo dimenticato. Ah, beh, certo, ovviamente. Allora, rispetto a questa iniziativa del Politecnico di Milano, che cosa è successo? Che poi tutta una serie di studenti e studentesse hanno indossato le magliette con la scritta, si sono fatte le foto su Facebook, mi pare, anche su Facebook, sui vari social network, Instagram. Ecco, e le hanno mandate in giro, e soprattutto le ragazze sono strizzate col seno bene in vista dentro queste magliette. Questo che cosa ha comportato? Che ha scatenato una deriva sessista, di commenti sessisti di svariato genere, e come reazione una deriva di moralismo d'accatto di altro svariato genere. Noi abbiamo trovato un articolo molto interessante di una compagna che abbiamo postato sul nostro blog, e con cui vogliamo collegarci e con cui vogliamo parlare, vediamo adesso di fare il collegamento in diretta. L'abbiamo trovato molto interessante perché lei in effetti riporta il focus su quello che è l'università, quello che è l'università azienda, quello che è il darsi oltretutto all'università, e però non dimenticando allo stesso tempo la critica in un verso e nell'altro, sia a questo sessismo imperante sia al moralismo che ne è venuto fuori. Quindi adesso vediamo se riusciamo a collegarci con lei. So I could have you, you, you, you, you, you, you.

condotto l'argomento perché è un argomento che ci ha colpito tantissimo questa settimana, perché non solo l'abbiamo anche collegato ad altre notizie sempre su dello stesso tipo, magari ambito diverso, come quello dell'alimentazione di McDonald's che fa la propaganda e i concorsi nelle scuole, e questo per cui gli studenti e le studentesse vengono coinvolti come sponsor nella scuola azienda. Però ci è piaciuto moltissimo il tuo articolo perché in pratica affronta a tutto campo il discorso, dal discorso sessista a quello del moralismo appunto d'accatto, come l'abbiamo chiamato noi, a quello della deriva della scuola azienda. Quindi se ci vuoi dire qualcosa tu, ci fa molto piacere, e anche diciamo quanto ti ha coinvolto scrivere questa cosa. Sì, intanto buonasera a tutte e tutti, è un piacere, mi fa anche un po' impressione essere collegata da qui alla radio, ma è davvero un piacere, quindi grazie per questo collegamento. Beh, diciamo che mi ha coinvolto molto e mi ha fatto anche riflettere personalmente, visto che appunto mi trovo comunque a lavorare in un'università inglese dove questo modello, diciamo, di brandizzazione, di commercializzazione del sapere, anche dell'università, come un bene di consumo di cui essere sponsor, è qualcosa che in qualche modo è avvenuto prima che in altri paesi, cioè il governo e diciamo il modello anglosassone di istruzione è quello che è stato preso, diciamo, a modello per tutte le varie riforme dell'università che si sono susseguite, e sono state anche un po', diciamo, la logica che ha sotteso l'attuazione dell'ormai famoso Bologna Process, che era quella carta europea per, diciamo, l'omogeneizzazione dei programmi di studio. E quindi diciamo che in Italia si sta un po', diciamo, verificando come sempre il ritardo rispetto agli altri luoghi, però si sta portando a compimento questa tendenza. Che è il processo, che è il processo neoliberista dell'istruzione, nel campo dell'istruzione, in effetti. Assolutamente sì, anche perché appunto quello, in realtà tutti gli argomenti di cui avete discusso parlando di questi concorsi a punti della McDonald's per le scuole, fino alla trasformazione, diciamo, dell'università in un brand da portarsi addosso, addirittura da scriversi fino anche addosso, è qualcosa che comunque è molto collegato. Io appunto l'ho vissuta come un'esperienza personale, appunto anche da partire da ciò che osservo qua, e insomma quindi vorrei provare a fare un po' un collegamento tra le varie cose di cui avete parlato. Certo. Da un lato la tendenza un po' all'interno dell'università anglosassone, che si sta un po' generalizzando, è appunto favorire l'ingresso dei privati all'interno dell'università in vari modi. È del tutto evidente che i discorsi che riguardano dall'alimentazione fino al controllo sui programmi di studio, al finanziamento da parte dei privati all'interno delle scuole, tutto volto in qualche modo a formare quel perfetto individuo neoliberale che poi dovrebbe inserirsi non solo in un certo modo all'interno del mercato, ma all'interno della società in qualche modo. Certo. Quindi non sorprende certo il fatto che appunto un'azienda come McDonald's faccia un programma sulla nutrizione, perché cioè l'individuo neoliberale, diciamo, acquista tutta una serie di saperi e anche di comportamenti che vanno da quello che si mette sulla tavola a quello che studia. E diciamo che ci sono anche poi forme che appunto diventano anche particolarmente insidiose, perché è chiaro che McDonald's, che comunque fa un programma a punti nelle scuole, offre i punti per andarsi a comprare un cheeseburger, se volete anche una manifestazione eclatante, passatemi il termine, anche un po' all'italiana, di fare le cose proprio con una modalità assolutamente, certo, in qualche modo anche ridicola forse, perché dare i punti per i panini è veramente qualcosa che fa un po' sorridere. Però appunto ci parla comunque di una tendenza che c'è all'interno delle università, dove i privati entrano dirigono i saperi, in qualche modo cambiano anche di senso questi saperi. Sotto questo punto di vista mi veniva in mente, insomma, un altro articolo che mi ha inviato la compagna, diciamo, per prepararci un po' anche ai temi della trasmissione, su anche la questione dell'insegnamento dei saperi femministi e quindi, certo, in qualche modo critici all'interno dell'università. Ecco, il problema diventa anche che all'interno di questo tipo di università pure la critica diventa un elemento spendibile. Faccio, certo, un esempio molto, certo, certo. Faccio un esempio molto personale: il dipartimento in cui lavoro è noto e viene brandizzato proprio per essere un dipartimento di studi critici del management e dell'organizzazione. Quello è diventato il brand su cui l'università capitalizza e fa soldi, con il quale attira, diciamo, studenti e studentesse. Però da un certo punto di vista è vero, ci sono appunto persone come me, ma tanti altri che cercano di far passare saperi critici all'interno di quel contesto, ma lo fai passare in un contesto nel quale la retta media è di 12.000 euro all'anno, e quindi ovviamente non è accessibile a strati bassi della popolazione. Se ti vuoi iscrivere a questa università senza poterselo permettere, ti devi indebitare a vita. Certo, è un po' il modello che era passato in Cile, tra l'altro, no? Sotto la prima sperimentazione del neoliberismo sotto Pinochet. Beh, e infatti, voglio dire, erano tutte le teorie, diciamo, di Friedman, che in qualche modo dal tema della casa al tema dell'università aveva stabilito, insieme a tutti i vari think tank neoliberisti, perché poi ovviamente, dato che non siamo complottisti, non pensiamo certo che sia un solo individuo, una sola entità a stabilire una linea di pensiero, ma sono, diciamo, varie linee di pensiero che poi vanno a convergere tutte su un unico obiettivo, e quindi portano anche al fatto che pure il sapere critico all'interno dell'università neoliberista diventa oggetto in qualche modo di mercato e fonte di profitto. Questa è una grande... Sì, sì. Tant'è vero che noi ci siamo sempre abbiamo sempre verificato che una delle caratteristiche fondanti di questo momento storico, appunto, neoliberista, è quello che il sistema riesce a strumentalizzare qualsiasi soggettività, anche antagonista o idea antagonista, e a ribaltarla a proprio uso e consumo. E questo lo fa con le donne, lo fa con le diversità, lo fa addirittura col razzismo, col fascismo, tanto è vero che noi diciamo sempre che è una società dell'antisessismo sessista, dell'antirazzismo razzista e dell'antifascismo fascista. Ecco, hai detto benissimo. Infatti, collegandomi anche un po' all'intro, cioè a quello che avevate detto in introduzione, anche a quello che sentivo prima che iniziasse la trasmissione sulla questione della giornata della memoria, cioè in qualche modo è come se all'interno di questi contesti, di questo tipo di università e anche di scuola, cioè tutte le opinioni, in qualche modo tutto quello che viene insegnato, tutto ciò che viene detto, venisse, come dire, tutto equiparato, ogni opinione, quella sessista e quella antisessista, quella razzista e quella antirazzista, vengono presentate in qualche modo come delle nozioni di pari valore che vanno erogate allo studente cliente, certo, e come tali, cioè, possono essere una ugualmente accettabile rispetto all'altra. Cioè, quando provi a dare una tua valutazione di merito su quello che è, diciamo, su quello che pensi che sia giusto, a porla in termini che esulino dal semplice dire questa è un'opinione, questa è un'altra, ti ritrovi ad avere a che fare con una barriera del sistema, e va detto anche purtroppo a volte anche da una scarsa ricettività degli studenti e delle studentesse stesse, perché comunque, essendo stati scolarizzati all'interno di un sistema di questo tipo, sono abituati, come dire, a riconoscere come dire, pari dignità a opinioni di segno diverso, senza per questo dare una valutazione o elaborarsi sopra un pensiero. Certo, anche perché non vengono, come dici tu, cresciuti in un ambiente che si, appunto, struttura l'analisi, o comunque la incita all'interno comunque delle mura scolastiche. Questo mi faceva venire in mente che Ad oggi nelle scuole non c'è più nessun tipo di agibilità, proprio nemmeno cominciando ad applicare la buona scuola, fondamentalmente le scuole non hanno più nessun tipo di agibilità su progetti o programmi alternativi anche proposti agli studenti. Ma ricordo che quando stavo io a scuola, quindi negli anni 90, inizio 2000, c'era tutta questa moda da parte dell'istituzione scolastica di vari livelli del contraddittorio, quindi se tu proponevi un dibattito invitando qualcuno a parlare, mi ricordo che preside e professori ti chiedevano di chiamare qualcuno che potesse tenere il contraddittorio, quindi che parlasse della controparte, e questo sistema in realtà piano piano è stato sussunto da studenti e studentesse fino ad arrivare ad oggi, in cui non hai nemmeno più la possibilità nemmeno di poterlo chiedere il contraddittorio. Sì, esattamente, e questo in qualche modo poi ci porta anche, diciamo, da un punto di vista anche femminista a ragionare, cioè, su due fronti. Da un lato appunto questa mercificazione dell'università e anche questa trasformazione in qualche modo dello studente in un cliente a cui vengono venduti dei pacchetti di nozioni di egual valore senza alcuna valutazione di merito e critica, porta al fatto che appunto lo studente si considera appunto come un cliente, come parte di questa dell'istituzione, proprio in un rapporto consumatore-cliente, e sappiamo che come consumatori-clienti, cioè all'interno della società neoliberista, uno dei cardini fondamentali è il fatto che tu il prodotto te lo porti addosso, lo sponsorizzi tu stesso, cioè proprio la quintessenza della biopolitica, cioè lo vediamo noi stessi con l'uso dei social network di cui tutti comunque facciamo uso, però certo. In qualche modo noi mettiamo in gioco la nostra personalità, le nostre informazioni personali, quello che siamo, i nostri contatti produrre, cioè profitto per il servizio di cui usufruiamo come tra virgolette clienti, quando anche a titolo gratuito, ma in realtà di gratuito non c'è nulla, evidentemente. Certo. Questo confronto ancora più stridente nell'università, perché comunque tu lavori, sei il cliente, diciamo, di un servizio che peraltro è sempre più costoso e anche sempre più scarso in termini qualitativi, però la questione diventa la difesa di quell'istituzione in una funzione campanilista, in una funzione comunque di appartenenza a un qualcosa, di aderenza a un certo prodotto di mercato, al punto tale che te lo scrivi addosso. Poi ovviamente, come sempre, ci siamo ritrovati in una condizione per cui il fatto che le studentesse se lo siano scritto sul proprio corpo ha dato adito, si è scatenato, certo, esatto, per cui vengono fuori queste cose che tu hai detto in maniera chiarissima, che a noi è piaciuta tantissimo, che se una donna espone il corpo e lo usa come meglio crede, sei una a cui tirare i croccantini, no? E se invece mettono la scritta sulla fronte invece che sulle tette, allora sei intelligente, bypassando tutto quello che abbiamo detto finora, no? Tra l'altro vorrei sottolineare che non è sempre non a caso questa iniziativa dello scriversi le cose sulla fronte è partita da un'iniziativa dell'UDU, che sarebbe praticamente la costola del PD all'interno del sindacalismo universitario. Questo moralismo imperante, questo moralismo continuo che vediamo dalle parafemministe di se non ora quando a qualsiasi branca di queste diciamo, cioè, democratiche, che però poi se sono magari contro l'aborto, sono contro questo, contro quello, l'abbiamo visto anche in questa occasione. E volevo mettere come ultimo punto il fatto che in tutto questo, come se non bastasse, ci ritroviamo all'interno di un'università, cioè di un sistema scolastico che appunto magari ti fa fare i corsi della McDonald's, ti dai punti per andare a mangiare il cheeseburger, dopodiché quando dovrebbe davvero parlare di corpi di autodeterminazione, ancora oggi impedisce i corsi di educazione sessuale in base all'assurda teoria del gender, per cui ci sarebbe un complotto mondiale di non si sa quale fattura

think of Rose, my heart begins to tremble. To see the place she's lately gotten to, gotten to, gotten to. She's gotten to mysterious devotions. She's gotten to the zodiac and Zen. She's gotten into tarot cards and potions. She's laying her religion on her friends, on her friends, on her friends. Friends who come to ask her for their future. Friends who come to find they can't be friends because of signs and seasons that don't suit her. Ciao, adesso avremmo dovuto leggere un intervento di Denis che, come ogni ultimo mercoledì del mese, trova spazio nella nostra trasmissione Desmonautica, dal titolo Note di politica trans, ovvero l'importanza di avere delle priorità. Ma siccome abbiamo pochissimo tempo a disposizione, già ne abbiamo approfittato durante l'ultima trasmissione, e soprattutto perché l'intervento di Denis è molto bello e anche articolato e vale la pena leggerlo tutto, gli daremo spazio durante la prossima trasmissione, ovvero mercoledì prossimo. Volevamo intanto ricordarvi che in questi giorni stanno succedendo degli avvenimenti molto importanti a Calais, di cui tutte e tutti sicuramente siete al corrente, e che sono state rinchiuse in un CIE francese tre compagne italiane. Essendo ICE un momento di controllo sociale altissimo e molto forte, è chiaro che poi non sono destinati solo i migranti e le migranti, ma sono destinati a tutte quelle e a tutti quelli che sono scomodi al sistema. E quindi Martina, Ornella e Valentina sono state rinchiuse nel CIE perché la loro colpa è stata di lottare insieme a tutti quelli che rivendicano libertà, diritti e una vita dignitosa. Allora, tutto il nostro sostegno a Martina, Ornella e Valentina, e comunque riparleremo di loro nella prossima trasmissione, che è sulla memoria, sul controllo sociale, sui CIE e sui desaparecidos. Vi salutiamo perché abbiamo veramente rubato già di nuovo del tempo alla trasmissione di Elettrodo. Vi ricordiamo che potete trovare tutti i nostri materiali su coordinamenta.noblogs.org, potete scriverci a coordinamenta@autistiche.org, e vi ricordiamo di finanziare questa radio, altrimenti non riusciremo più a trasmettere.